con Paolo Minuto per parlare di Yalla Yalla di Cristian Pirovano e Fernando Romanazzo. Paolo, ben trovato. Bentrovati a tutti voi e buon anno a tutti gli ascoltatori. Allora, ci sarà in sala anche Fernando. Raccontiamo intanto il film di cosa parla. Ma questo è un documentario che è inserito nella tradizionale rassegna di Apollo 11, Racconti dal Vero. Per Apollo 11 è molto importante poter aprire l'anno con questo evento, con questo film, che è la prima coproduzione ufficiale tra la Palestina e l'Argentina, tra la produzione anche di Stato, l'Inca argentino e i cineasti palestinesi. In questo caso Fernando Romanazzo con Cristian Pirovano sono andati a guardare il tema del conflitto palestinese-israeliano, che è un conflitto molte volte raccontato dal cinema, sia in finzione che documentari, ma in questo caso da un'angolazione particolare e da un certo punto di vista molto più popolare, cioè quella del calcio. E attraverso il racconto delle difficoltà delle squadre di calcio palestinesi, che hanno comunque un torneo ufficiale iscritto alla FIFA, hanno anche una selezione nazionale, raccontano in realtà la difficoltà e la realtà concreta quotidiana della difficoltà di vivere occupati da un esercito e un paese straniero rispetto alla loro territorialità, alla loro popolazione. Poi naturalmente la storia di Israele e della Palestina è molto più complessa, ma comunque il tema di fondo è questo, e quindi è in realtà un racconto attraverso degli atti pacifici come sono quelli del gioco del calcio, ma che subiscono delle azioni violente da parte degli invasori. Dico questo naturalmente parlando del governo israeliano e non dell'intera popolazione israeliana, perché come Certo. ci ricorda anche Amos Oz, recentemente scomparso, abbiamo tantissimi intellettuali israeliani che naturalmente si battono per i diritti anche dei palestinesi, quindi questo è giusto ricordarlo, così come ci sono dei palestinesi integralisti che spesso impediscono la sola proiezione di un film all'interno del territorio palestinese, quindi questo per dare la complessità, però in generale esiste un tema di libertà del popolo palestinese che purtroppo è ancora attuale dopo tanti, tanti decenni. Ci racconti anche un po' le vicende di questo documentario, se ne sei al corrente, Paolo. Sì, ma le vicende produttive che siano abbastanza semplici, anche se poi alcune cose le scopriremo e le scoprirà chi sarà l'Apollo mercoledì sera. Ma sono finalmente, diciamo, una relazione di coproduzione tra un paese non europeo e la Palestina, perché dei film palestinesi sono stati spesso coprodotti da paesi europei, ma un paese cosiddetto extracomunitario come l'Argentina, che produce un film con la Palestina, è sicuramente una rarità. E tra l'altro un film di questo tipo, il calcio popolare in Italia, così come in Argentina, e anzi tra Italia e Argentina c'è un rapporto anche etnico, diciamo, perché almeno la metà della popolazione argentina è di origine italiana. E quindi anche in questo senso il rapporto col calcio è molto interessante. Tra l'altro i campioni che spesso ritroviamo tra quelli che sono in qualche modo ammirati anche in Medio Oriente, in Africa, cioè sono campioni argentini, Maradona, Messi, eccetera. Ora, la popolarità del calcio ci fa avvicinare al tema, ma il grande tema di cui parlavo prima, visto attraverso la difficoltà della vita del campionato di calcio nei territori palestinesi, quindi in fondo un territorio abbastanza limitato, ma che ha un suo campionato regolare, si vedono le difficoltà quotidiane. Anche il calciatore di punta, per esempio, della nazionale palestinese, che al rientro viene arrestato per motivi che ovviamente nulla hanno a che vedere con il calcio. Ecco, tutto questo è molto interessante perché in qualche modo in un film documentario ci fa seguire una storia come in parte se fosse un film narrativo. Ma un altro elemento originale interessante che è della realtà e che il documentario rappresenta con intelligenza è anche il ruolo delle donne all'interno dell'organizzazione calcistica palestinese. Il ruolo delle donne non giocatrici in questo caso, perché non vediamo donne giocatrici, ma donne dirigenti. C'è una donna dirigente della Federazione della Federcalcio palestinese. Questo è anche molto interessante, anche perché se ne vede l'abilità e la competenza, tra l'altro. Bene, bene. E allora ricordiamo Yalla Yalla di Cristian Pirovano e Fernando Romanazzo. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione. Paolo, un abbraccio, e in bocca al lupo e auguri. Grazie, auguri anche a voi.